Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona serata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano anche da Isotta Scenna, Laura Fagini in redazione e Paolo Corleone in regia. Commenti e domande via SMS, lo sapete, 349-238-6666, la mail nessunluogo@radio24.it. E Twitter e Facebook sono qua sotto i miei occhi, il profilo Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, invece potete cinguettare sul tema di questa sera su Nessun Luogo 24. E il tema di questa sera, l'avete sentito dal GR, è ancora una volta, ai noi, la Siria. E il coniglio dal cilindro della diplomazia internazionale è un coniglio bianco che parla russo. Perché? Perché la proposta russa della consegna degli arsenali chimici da parte di Assad ha per il momento sventato quella che era l'ipotesi più vicina, quella quindi di un bombardamento da parte degli Stati Uniti. Putin, grande pacificatore, come anche ci ha scritto un nostro ascoltatore sulla pagina Facebook, Putin vince, Obama anche, perché avrebbe dovuto affrontare, ma non sappiamo ancora se dovrà farlo in futuro, in un prossimo futuro, una guerra, un bombardamento rispetto alla quale il consenso non era elevato, rispetto alla quale gli esiti erano davvero, sono tuttora davvero imprevedibili. Forse, considerazione personale, chi continua a perdere sono i civili siriani che continuano a essere sotto i bombardamenti. Nella puntata di questa sera di Nessun Luogo Lontano cercheremo di capire meglio in base a quale leggi internazionali si materializzano queste possibilità di, lasciatemi la provocazione, questi sceriffi del mondo, gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, che a un certo punto decidono di punire il dittatore o il cattivo di turno. Prima però di fare qualsiasi analisi è utilissimo andare a fotografare la situazione sul terreno, e allora Gabriele Del Grande, di ritorno da Aleppo, ha passato circa 10 giorni lì. Gabriele è giornalista freelance, lui innanzitutto ci consegna una prima fotografia della città di Aleppo. Ma Aleppo è una città che convive ormai da più di un anno con la guerra, convive al punto che non c'è una strada che non abbia un intero palazzo distrutto sotto le bombe, non c'è un giardinetto che non abbia le lapidi dei morti di quella strada, appunto in mezzo ai prati del giardino, che aveva gli alberi tagliati per fare la legna durante l'inverno scorso, è stato un fortissimo problema per riscaldare le case. È una città dove la morte è talmente presente nella vita di tutti i giorni che la gente quasi nemmeno fa caso alla notizia del bombardamento americano. Diciamo, sono 2 anni che vanno avanti i massacri, sono 2 anni che scorre il sangue, la gente si è un po' stancata di sentire postare ogni volta più in là le linee rosse, diciamo, che non dovevano essere superate dal regime siriano. Ovviamente diverso è il discorso a livello dei vertici dell'esercito libero, che sicuramente sperano in un bombardamento, sperano, insomma, che sia il colpo che possa spostare in loro favore, insomma, gli avvenimenti della guerra. Ecco, chi ha spostato a loro favore negli ultimi mesi il bilancino di questa lunga guerra civile rispetto all'esercito siriano libero sono tutte quelle milizie più agguerrite, milizie islamiche, Jabhat al-Nusra, ma non solo. Ho chiesto a Gabriele di darci conto di quello che ha visto lui ad Aleppo rispetto alla presenza di queste milizie. Le milizie più attive sono sicuramente quelle degli islamisti in questo momento, che sono quelle che hanno un maggior sostegno finanziario. Questa è anche la conseguenza dello stallo della comunità internazionale sulla decisione di armare o meno le formazioni più laiche o più moderate dell'esercito libero. C'è una grossa differenza che ho notato rispetto all'ultimo viaggio che avevo fatto ad Aleppo 6 mesi fa, che rispetto appunto al ruolo crescente dello Stato Islamico nell'Iraq e nel Levante, questa formazione legata ad Al-Qaeda che da alcuni mesi sta aumentando il proprio peso in Siria. A livello numerico sono sicuramente pochi, sono minoritari rispetto al grosso delle truppe dell'esercito libero, però stanno seminando il panico in tutti i sensi. Sono elementi fuori controllo, non sono controllati dai vertici dell'esercito libero, e gli stessi civili siriani, le stesse formazioni dell'esercito libero temono la loro presenza e sanno che una volta caduto il regime, se cadrà, inizieranno gli scontri per il controllo del territorio con queste milizie di estremisti. Ecco, e come i cittadini di Aleppo, non quelli che prendono le armi, i civili, vivono la presenza estremista nella loro città e nel loro paese? Ma in realtà ad Aleppo non sono molto presente. Ad Aleppo è abbastanza presente il fronte del Jabhat al-Nusra, che però si caratterizza per buone relazioni con i cittadini. La differenza tra Jabhat al-Nusra e Dawla Islamia, lo Stato Islamico, che è l'altra formazione legata ad Al-Qaeda, è che Jabhat al-Nusra gli viene riconosciuta dai cittadini, anche da cittadini moderati, laici, un ruolo, diciamo, una presenza anche di assistenza sociale, quindi parlo di aiuti che vengono portati, prezzi della benzina, del pane che vengono calmierati, un'attività di polizia nei quartieri, di sicurezza, di pulizia anche delle strade, dell'immondizia. Invece la differenza con lo Stato Islamico, Dawla Islamia, che ad Aleppo è molto poco presente, è molto più forte nelle campagne, in alcuni villaggi, nella provincia di Aleppo e di Idlib, che invece hanno un trattamento molto molto duro con i civili. Arrivano notizie di esecuzioni, di persone uccise per reati banali che vanno dal furto alla violazione di qualche principio islamico. Questo chiaramente sono dei comportamenti che causano, insomma, come ripercussione chiaramente una forte paura da parte dei cittadini. Io torno a casa con questa impressione che l'altra volta non avevo, nel senso che 6 mesi fa l'Aleppo si girava tranquillamente con i civili, con gli attivisti, e oggi non è così. Oggi si scelgono le strade, si raccomanda ai tassisti di non passare nelle strade dove ci sono i posti di blocco dello Stato Islamico, di queste formazioni legate all'Al-Qaeda, perché gli attivisti siriani sono i primi ad aver paura di essere arrestati, di finire in galera, magari di essere ammazzati, come è successo a tanti di loro. Questa è la cosa più triste, insomma, di come un fronte che lottava per il cambiamento piano piano, insomma, sta facendo risucchiare e tradire da questi elementi esterni. E infine, tassello fondamentale, se ne è parlato pochissimo negli ultimi mesi perché, diciamo, l'aspetto militare prevaleva anche nel racconto dei giornalisti, il ruolo degli attivisti, che si è un po' spento rispetto a quello dei miliziani dell'esercito siriano libero. Sentite ancora Gabriele Del Grande. Ma diciamo che del movimento, di quello straordinario movimento civile che ormai 3 anni fa aveva tenuto la piazza per 6 mesi, una piazza non violenta di fronte alla violenza del regime, è rimasto poco, sono rimaste le ceneri, nel senso che migliaia di persone sono state uccise in quei primi mesi di protesta non violenta. Ci sono ad oggi circa 200.000 prigionieri, immaginate cosa vuol dire, no? Per il movimento avere 200.000 prigionieri politici. Ci sono migliaia e migliaia di attivisti che sono fuggiti all'estero, che non sono più attivi, e quei pochi che sono rimasti hanno una voce chiaramente minoritaria, cioè, diciamo, la voce delle armi chiaramente copre la voce della piazza pacifica. Non c'è una piazza in questo momento, ci sono molti attivisti che nel loro piccolo fanno fondamentalmente 2 cose, l'informazione, quindi seguire le milizie dell'esercito libero nelle battaglie, documentare, raccontare, far uscire le immagini dei massacri, delle violenze, dall'altro invece servizi, quindi riaprire le scuole anche nei quartieri, anche sotto la guerra, aprire degli ospedali, delle cliniche clandestine nelle varie strade per curare i civili e i combattenti, e gestire poi l'invio, l'arrivo in Siria di aiuti, perché ad Aleppo manca tutto. Ad Aleppo non c'è corrente elettrica, in alcuni quartieri non c'è l'acqua, quando sono stato dentro io per 10 giorni non c'era il telefono, quindi aiuti e informazione, mentre all'estero, in Turchia, vanno avanti a IOSA corsi di formazione che vengono fatti dalla società civile siriana per gli attivisti, pensando al futuro, pensando poi al momento in cui ci sarà bisogno in qualche modo di una classe dirigente per il paese. Però sicuramente in questo momento non è la loro voce che conta, non è la loro voce che determina, diciamo, il futuro della vicenda. Al contrario, più diventa violenta e feroce la guerra e più il peso delle formazioni islamiste, diciamo, aumenta poi di fatto sul terreno. E E se c'è una voce che si è sentita negli ultimi 2 anni è quella delle armi, ovviamente, ma è ultimamente anche quella della diplomazia internazionale, perché quella minaccia americana è evidentemente qualcosa ha smosso, come ad esempio sottolinea un ascoltatore al 349-238-6666: nessuno ha vinto per la Siria, ma se Obama non si fosse mosso nessuno avrebbe fatto nulla di concreto, Putin men che meno. Questo uno fra i vari sms, però come vi dicevo è utile e importante capire quale quadro internazionale permetterebbe a questo punto a Obama di intervenire, quale legge internazionale. Allora do il mio buonasera, il mio benvenuto a Nessun Luogo Lontano al professor Edoardo Greppi, che insegna diritto internazionale a Torino. Professor Greppi, buonasera, benvenuto. Buonasera a lei. Allora, ci aiuti a capire meglio, forse il diritto internazionale è una materia che in pochi mi ci metto in mezzo, io e il pubblico magari mastichiamo. In base a quale legge internazionale Obama potrebbe intervenire legittimamente in Siria? Sulla base dei presupposti che si sono visti finora, evidentemente mancherebbe questa legittimazione, perché nel diritto internazionale contemporaneo la legittimazione all'uso della forza contro uno Stato può venire soltanto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo le due guerre mondiali e quindi le tragedie della prima metà del Novecento, la comunità internazionale si è posta seriamente il problema di bandire l'uso della forza indiscriminato, che fino ad allora era la regola, diciamo, nella vita di relazione tra gli Stati. Per cui dalla stipulazione della Carta delle Nazioni Unite, dalla istituzione di questa grande organizzazione internazionale, si è voluto porre a fondamento della vita di relazione tra gli Stati il divieto del ricorso alla forza, con due sole, un divieto generalizzato che conosceva due sole eccezioni. L'uno è la legittima difesa a fronte di un attacco armato che uno Stato abbia subito, e questo non è il caso, oppure la forza decisa o autorizzata appunto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per la verità decisa, poi nella prassi si è anche accettato che il Consiglio di sicurezza in taluni casi si limitasse a autorizzare l'uso della forza da parte degli Stati. Quindi l'unica fonte di legittimazione che abbiamo oggi nell'ordinamento internazionale è il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Può piacere o non piacere, ma così è. È chiaro che si tratta di un organo politico, e quindi l'organo politico è per definizione discrezionale, vale a dire usa la forza quando i suoi componenti, che in questo caso sono 10 stati di cui 5 membri permanenti con diritto di voto e 10 elettivi, sì, si mettono d'accordo per usarla. Ecco. Allora, professor Greppi, adesso tirerò in ballo un caso, uno dei 3 casi che abbiamo deciso di usare come, diciamo, esempi di scuola, che è quello del Kosovo. Però prima dobbiamo fare una pausa, vediamo se possiamo già farla adesso. Sì, allora piccola pausa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano e andremo a quel 24 marzo del 1999. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. L'intervento militare del 1999 in Kosovo sottolinea quel precario equilibrio sviluppatosi tra l'obbligo della protezione dei diritti umani, minacciati dall'allora presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, e l'uso della forza da parte degli Stati Uniti. La motivazione adottata dall'allora presidente Clinton era sostanzialmente quella volta ad evitare il rischio di un'imminente catastrofe umanitaria. L'Operation Allied Force, questo nome della campagna di attacchi, per lo più aerei, fu quindi portata avanti dalla NATO contro l'ex Repubblica Federale di Jugoslavia nella primavera del 1999. Non si fece riferimento alla Carta dell'ONU né alle prerogative del Consiglio di sicurezza. A nulla servirono le risoluzioni 1160 e 1199, nelle quali si riconosceva un uso eccessivo della forza da entrambi i fronti e si rafforzava la richiesta di cessare le ostilità. Il 24 marzo 1999, dopo il rigetto serbo della pace di Rambouillet, la coalizione americana, in accordo con alcuni paesi europei, procedette con incursioni aeree che colpirono aeroporti militari, ma anche successivamente bersagli civili, con lo scopo di paralizzare il paese. in 78 giorni furono impiegati velivoli NATO per i due terzi americani. Buona parte degli aerei partirono da basi italiane, Aviano, Gioia del Colle e Sigonella le principali, e da unità navali dislocate nell'Adriatico. Tra i sostenitori dell'intervento, Belgio, Canada, Danimarca, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Turchia e Francia, seconda per armamenti solo all'America. Questo era il Kosovo del 1999, quando a un certo punto Bill Clinton decise che era ora di basta e diede il via ai bombardamenti. Siamo con il professore Edoardo Greppi, che insegna diritto internazionale all'Università di Torino, per capire su quali presupposti vi potrebbe essere una risposta o un bombardamento o un'azione militare da parte degli Stati Uniti appunto in Siria. Già abbiamo capito che, come dire, se non si passa dal Consiglio di sicurezza dell'ONU non ce n'è, professor Greppi, però in Kosovo accade qualcosa di diverso. Sì, allora fu invocata una dottrina che stava a cuore particolarmente ai francesi e che l'Eliseo aveva fatta propria, quella dell'ingerenza umanitaria, cioè a fronte di situazioni di massicce violazioni dei diritti umani vi sarebbe da parte della comunità internazionale un diritto di ingerenza, un diritto di intervento anche con le armi nella sfera di uno Stato sovrano. Anche in assenza di una decisione del Consiglio di sicurezza, cioè a fronte di una possibile paralisi o quantomeno inazione del Consiglio di sicurezza, gli Stati, in nome di questa ingerenza umanitaria, proprio per evitare una catastrofe nel paese, potrebbero usare la forza. Si fece ricorso a questa dottrina, che per la verità non ha avuto molto successo nel diritto internazionale, cioè non viene riconosciuta come fondamento sufficiente per aggirare l'obbligo di fare decidere l'uso della forza nell'ambito dell'unico organo legittimato a farlo, e cioè il Consiglio di sicurezza. Sì. Allora si disse che gli Stati Uniti non erano soli, ma erano in realtà riusciti a realizzare una situazione di consenso abbastanza esteso nell'ambito di un'organizzazione regionale come la NATO, e quindi come tale rappresentativa di un'ampia parte della comunità internazionale. Diciamo, sicuramente c'era un consenso molto più esteso di quanto ci sia oggi. Tuttavia, in realtà, come avete ricordato, non vi era stato alcun riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e alle prerogative del Consiglio di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza fece buon viso a cattivo gioco, si potrebbe dire, e nel giugno dello stesso 1999 adottò una decisione che secondo qualcuno legittimava a posteriori l'intervento, secondo altri invece in realtà si limitava a prenderne atto e a non discuterlo in termini di legittimità o illegittimità, guardando avanti e decidendo misure per il futuro del Kosovo. Sì. Ma in realtà diciamo che quel precedente è un precedente per modo di dire, perché non permette comunque di ritenere che si possa eludere questo obbligo della Carta delle Nazioni Unite di passare per il Consiglio di sicurezza e per essere legittimati. Certo. Professor Greppi, fra l'altro alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666, ma se gli Stati Uniti attaccano senza avallo dell'ONU, che cosa succede? Sinteticamente, se può, su questo punto. Ecco, non succede nulla, perché in realtà il problema della comunità internazionale è che è una società, diciamo noi, anorganica, cioè priva di organi. Parliamo cioè di un diritto internazionale che è espresso dalla comunità internazionale, che è una società che non ha un legislatore superiore agli stati, non ha un governo mondiale, non ha un giudice obbligatorio per tutti gli stati, e quindi è molto difficile sanzionare le violazioni. Diciamo che gli stati, per la verità, mai dicono di violare il diritto internazionale, anzi dicono di agire comunque nel rispetto del diritto, sì, internazionale, e in questo caso e in altri casi dell'ultimo decennio si è particolarmente fatto riferimento per esempio alla cosiddetta dottrina della responsabilità di proteggere, che è una rivisitazione della vecchia dottrina dell'ingerenza umanitaria in termini nuovi, nel senso che si dice che è vero, gli stati sono sovrani, il diritto internazionale e la comunità internazionale hanno l'obbligo di rispettare la sovranità degli stati, però connotato specifico della sovranità è anche la responsabilità di proteggere gli, sì, esseri umani, e sì, quindi quando uno stato violi gravemente i diritti umani dei suoi cittadini, quando non possa o non voglia, si dice così, proteggere la popolazione civile, allora interverrebbe la comunità internazionale a titolo sussidiario. E questo apparentemente è effettivamente un passo avanti in una configurazione che ci piace di più, insomma, del diritto internazionale, ma di nuovo non ci aiuta a risolvere il problema, perché di nuovo comunque l'autorità legittimata a decidere in questo caso l'uso della forza contro uno Stato sovrano resta il Consiglio di Sicurezza. Ecco, professor Greppi, l'ultimissima domanda, la prego massima sintesi anche su questo, perché volevo tirare in ballo un altro caso eclatante che noi tutti ricorderemo. Era il 19 marzo del 2011, pochissime ore dopo queste parole che vi faccio sentire, a Bengasi si urlava 1, 2, 3, Shukran Sarkozy. Il colonnello Gheddafi ha méprisé cet avvertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Perché in quel caso lì fu Sarkozy a mettere la quinta e a guidare un intervento che poi finì sotto il cappello NATO, se non ricordo male, poche ore dopo. Professor Greppi, allora a questo punto mi sembra che ci sia confusione, nel senso che a un certo punto anche la NATO si autolegittima a guidare degli interventi per proteggere la popolazione. Nella fattispecie si andò a proteggere Bengasi, che era completamente circondata dai tank, dai carri armati di Gheddafi, e si evitò ragionevolmente una strage. Sì, in questo caso, il caso della Libia di 2 anni fa è però diverso, nel senso che qui abbiamo avuto sì un intervento del Consiglio di Sicurezza che con due risoluzioni, la 1970 e la 1973, l'una a pochi giorni di distanza dall'altra, facendo riferimento a quella che ho citato, la dottrina della responsabilità di proteggere la popolazione civile, ha autorizzato l'uso della forza contro in Libia. Per la verità però l'ha autorizzata nei limiti di proteggere la popolazione civile. Diciamo che chi è intervenuto militarmente in realtà ha poi prodotto la caduta del regime, e qui siamo di nuovo un po' in una situazione che consente di constatare come spesso queste azioni unilaterali finiscano col rischiare, ancorché questa fosse autorizzata dalle Nazioni Unite, di esorbitare dal mandato che aveva ricevuto dal Consiglio di Sicurezza, che era quello di proteggere la popolazione civile, non di provocare un cambio di regime. Certo. Ora è chiaro che attualizzandolo a oggi è chiaro che il regime di Assad è un regime inaccettabile, sono state commesse gravi violazioni, la comunità internazionale non può restare indifferente, in questi giorni è stato presentato al Consiglio a Ginevra un rapporto di una commissione indipendente che fa constatare come siano stati gravemente violati i diritti umani, si è parlato correttamente della commissione di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. Sì. E quindi io sono dell'idea che sarebbe opportuno che il Consiglio di Sicurezza facesse aprire un dossier sulla Siria e sulle gravi violazioni commesse, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità da parte della Corte Penale Internazionale all'AIA. Ecco, ma tutto questo di nuovo richiede comunque un'autorità che sia legittimata ad adottare queste decisioni, e il rischio dell'azione unilaterale è un rischio che il diritto internazionale non si può permettere. Grazie allora professor Greppi per questo quadro che ha chiarito sicuramente meglio su quali binari potrebbe accadere quello che si è sventato per il momento, cioè l'intervento statunitense in Siria. Grazie professor Greppi, buona serata, buon lavoro. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. E lo so, perché detta così ai termini di una provocazione, ci sono sceriffi nel mondo, c'è qualcuno che ha i muscoli più forti, più grossi degli altri, ci sono gli Stati Uniti che intervengono unilateralmente, c'è la Francia che lo ha fatto, abbiamo citato il caso libico, quello del Kosovo, c'era un altro caso di scuola, tra virgolette, per chi si occupa di diritto internazionale, era l'Iraq del 2003, però c'era quella boccetta agitata da Powell, insomma poi le armi chimiche lì non si trovarono. C'è un altro caso però che è quello maliano, di questo paese del Sahel, dove l'intervento francese è stato, direi, universalmente riconosciuto come virtuoso. Chi ha seguito molto molto da vicino quel dossier è Romano Prodi, a cui do il mio benvenuto e il mio buonasera. Presidente, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Buonasera. E l'ha seguito molto bene perché era inviato speciale proprio dell'ONU per la crisi nel Sahel. Mentre lei, Presidente, tesseva le sue trame diplomatiche, però a un certo punto vi fu l'accelerazione francese, anche questa volta unilaterale. Ah, fu una cosa improvvisa, guardi, io ero a Bamako, incontrai il colonnello Sanagover sull'1,5 che mi parlava di un controllo del paese tranquillo. Alle 4 ho incontrato il Presidente della Repubblica, di cui non ho nemmeno capito l'angoscia perché non sapevo niente, ma in 3 ore i ribelli e i terroristi, tutta la parte nord, stava dirigendosi verso la capitale per occupare il paese. Quindi l'azione francese è stata vista da tutti come un'azione di salvezza nei confronti di un evento non previsto. Io ero contrario assolutamente, facevo di tutto per evitare lo scontro, ma come si sono svolte le cose, l'operazione era diventata purtroppo inevitabile. Quindi io non dico che fosse giusta o ingiusta, intendiamoci, era inevitabile. Però in quel caso si può dire che lo sceriffo francese fu uno sceriffo buono, sì o no, su questo, Presidente, che abbiamo il traffico? No, non c'è dubbio, perché, ripeto, si era trattato di un vero e proprio attacco militare a un paese che non era capace di difendersi. La Francia ha aiutato questo paese. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, il dossier siriano al centro di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, prima con l'ultimissime da Aleppo, grazie a Gabriele Del Grande, poi col quadro giuridico internazionale in base al quale si può intervenire anche unilateralmente, sì o no, abbiamo capito, no, si passa dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Infine siamo col Presidente Romano Prodi perché lui seguì da vicino quella crisi maliana che pur con un intervento unilaterale, quello francese, finì bene. Perché finì bene politicamente? Beh, perché vi sono state quest'estate le elezioni, c'è un Presidente in Mali regolarmente eletto, non vi sono state violenze di alcun tipo e quindi insomma alla fine possiamo dire che è andata bene. Presidente Prodi, la faccio tornare invece sul dossier siriano, come commenta questa soluzione russa, questa scaturita da Ginevra? Però sì, devono ancora avvenire le elezioni politiche, sì, che coinvolgono i problemi delle tensioni fra sud e nord. Il momento è ancora delicato perché le elezioni presidenziali in fondo erano un po' più facili, intendiamoci, sono andate bene ed è stata una bellissima cosa, sì, però erano assai più facili perché la popolazione del sud è sui 15 milioni, quella del nord è 1,5 milioni, quindi non c'erano problemi dei rapporti fra i due gruppi. Sì. Adesso invece bisognerà lavorare su quali livelli di autonomia locale concedere al nord, su come devono essere le rappresentanze parlamentari delle minoranze. Il problema è ancora complicato. La sì, via però è stata aperta nella direzione giusta. Sì. Ha fatto bene a ricordare perché tutta la crisi maliana, se vogliamo, è esplosa proprio per quel nord più povero e dimenticato, le cui stanze Bamako non ascoltava da molti e molti anni. È di razza diversa. Sì, sì. Un commento, Presidente, su questa soluzione russa, come la vede rispetto alla Siria? Beh, è stato un colpo di diplomazia molto abile. Putin ha sfruttato, si è accorto di un'opinione pubblica internazionale estremamente contraria alla guerra, ha certamente utilizzato i buoni rapporti con Assad e è riuscito a fare una proposta che in fondo, almeno in principio, non si poteva rifiutare. Poi vediamo come va avanti. Oggi mi sembra che abbia fatto un progresso nella direzione giusta, ma ancora non è definitiva. Tuttavia il vantaggio russo è stato quello di una proposta concreta di fronte a una incredibile indecisione del presidente americano. Io in apertura della trasmissione ho detto Putin vince perché si propone come pacificatore di questa delicatissima crisi siriana, Obama vince perché non va a fare una guerra che scottava troppo, perché non aveva il consenso, eccetera, eccetera. Chi perde però sono i civili siriani. Torniamo a Obama, secondo lei perché si è infilato in questo incredibile vicolo cieco politico nel tracciare quella linea rossa sulle armi di distruzione di massa, sulle armi chimiche, chiedo scusa, e non sui 200.000 morti pregressi, e quindi si è infilato un po' in una situazione veramente spinosa? Forse non l'ha gestita tanto bene questa crisi siriana? Tendo a dire che si è infilato soprattutto per il suo carattere. Nella politica estera Obama, che da cui tanto mi attendevo, ha sempre fatto dei grandi proclami di principio e poi non è riuscito a farne seguire l'azione. Pensi al discorso del Cairo su tutta l'Africa, pensi anche allo stesso problema della Libia, eccetera. E quindi lui ha lanciato una barriera di principio senza rendersi conto della difficoltà interna che aveva nel mantenere le promesse che aveva fatto. E Putin è stato più realistico e ha tenuto conto delle forze in campo. Tra l'altro la cosa incredibile è che Putin ha sfruttato più di Obama l'opinione pubblica internazionale, di cui Obama era il domino e il re fino a pochi mesi fa. Presidente, non per fare fantapolitica in questo momento, però alcuni giornali internazionali titolano dicendo attenzione Putin, nuovo leader nel Medio Oriente. Vede plausibile una figura di sempre più primo piano da parte della Russia nelle cose medio orientali, con questo Obama che, come lei tratteggiava, è un po' più defilato, un po' più indeciso, meno aggressivo dei suoi predecessori? Allora, che Obama sia un po' più defilato, meno aggressivo, benissimo. Che gli Stati Uniti, per motivi sia economici che politici, siano molto più prudenti in Medio Oriente, benissimo. Che la Russia la faccia da padrone, no. Il Medio Oriente è troppo complicato per essere in mano a un controllore solo. La Russia gioca sulla controversia sciita sunnita, la Russia ha tenuto rapporti molto stretti e molto forti con i nemici degli Stati Uniti, gioca quindi in modo speculare all'America, ma io credo che questo balletto terribile continuerà per lunghissimo tempo, non più con un'America unico o principale protagonista come era quando si voleva mettere con la guerra in Iraq il sigillo alla potenza americana, ma sarà un gioco di rimpalli continui fra le diverse grandi potenze e in cui anche la Cina avrà sempre più un ruolo. Noi lo dimentichiamo, ma ad esempio è la Cina l'acquirente del petrolio iraniano, è la Cina il trader, il commerciante sempre più forte di tutta l'area, e accanto alla Cina abbiamo anche un gioco molto importante, indebolito negli ultimi mesi, ma molto importante, della Turchia. Presidente, come valuta invece la posizione del governo italiano, che quando Cameron e Obama e la Francia, insomma, pigiavano sull'acceleratore, a un certo punto il nostro ministro degli esteri Bonino si è messo un po' di traverso? Ma io penso che il governo italiano avesse chiaramente, direi con una buona intuizione, capito che entrare in guerra in Siria si entrava in un pasticcio senza fine, e ha usato il freno a mano, il freno a pedale per un lungo periodo di tempo. Poi, qui è chiaro che io non ero presente, non le posso dire come, ci deve essere stata una buona pressione da parte americana e è stato firmato il documento americano, tuttavia un documento molto tenue, quindi il governo italiano ha esercitato un ruolo abbastanza marginale, come però onestamente il ruolo italiano in Siria da qualche tempo e anche in Medio Oriente. Il governo italiano, a mio parere, dovrebbe invece, e potrebbe, e dovrebbe, e sarebbe benedetto se facesse una iniziativa preventiva di pacificazione, di riunificazione nazionale in Libia, dove invece possiamo avere un ruolo. Cioè, io dico, l'Italia deve preoccuparsi della Siria, ma occuparsi della Libia, che è sotto certi aspetti di situazione pre-siriana. Allora, ha toccato un tasto fondamentale che è quello della crisi libica, perché in parte quella maliana vi è legata, perché l'apertura degli arsenali, dei grossi arsenali di Gheddafi, poi rifornì anche quelle milizie estremiste che poi sconfinarono in quei porosi territori dove i confini sono tracciati col compasso e con la riga sulla carta geografica, ma che le milizie attraversano. Quando il presidente dice un ruolo più attivo sulla Libia, che cosa si immagina in questo ruolo di Vede, io dico semplicemente questo. In Libia il governo comanda in modo molto limitato. Ci sono strutture armate, molte strutture armate, che hanno un potere quantomeno di interdizione. Addirittura, come lei sa, la legislazione sull'epurazione del Parlamento è stata forzata da un assedio dei milizie armate attorno al Parlamento e l'autonomizzazione di Cirenaica e della parte sud del deserto nei confronti della Tripolitania è un obiettivo di molte di queste milizie. Allora qui bisogna assolutamente mettere attorno al tavolo i protagonisti di questa situazione di tensione perché la Libia non cada in una guerra civile, siamo ancora a tempo e quindi l'Italia è ascoltata in Libia, è naturalmente ascoltata, mentre molto più difficile è una nostra influenza in Siria dove siamo assenti da parecchio tempo, insomma. Chiarissimo, chiarissimo. Presidente, io la ringrazio per essere state con noi. Una buona serata, un buon lavoro. Grazie e complimenti per la trasmissione. Allora, non mi resta che ringraziare Isotta Scenna, Laura Faggini che hanno scritto con me questa puntata, Paolo Corleone che le ha dato la musica ritmo, voi per essere stati all'ascolto anche questa sera. L'appuntamento è per la replica della domenica in versione extra large con qualche contenuto in più, o se no, sabato prossimo, ore 19:15, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.